Nuova puntata di questo percorso nell'anno centenario dedicato a Pio X, e con questa puntata, come abbiamo già detto la settimana scorsa, iniziamo la conoscenza del progetto Aurora, un progetto che riguarda scuole, docenti, alunni, e li conosceremo. Sono molti che stanno partecipando a questo progetto che culminerà fra circa un anno, nell'autunno del 2014. Salutiamo i nostri primi due ospiti, il professor Mario De Conto, preside, e il professor Samuele Busetto, docente di storia e filosofia al Collegio Vescovile Pio X di Treviso. Benvenuti. Grazie. Grazie. Collegio Pio X, insomma, già da qui capiamo che c'è un legame evidente con il Papa. Certo, il Pio X viene fondato da Monsignor Longhin, dal Beato Longhin oggi, ecco, possiamo dire, nel 22, quindi siamo a un 8 anni dopo la morte di Pio X, però sappiamo bene che fra Pio X e Longhin c'era uno stretto legame, ecco, anche un carteggio molto intenso. Fu Pio X a volere Longhin vescovo a Treviso. Esatto, quindi. Esatto, e quindi ecco, ecco il legame poi, ecco, del nome, difatti il nome è Collegio Pio X, che viene fondato appunto a pochi anni dalla morte del Papa, quando non era ancora santo. E nemmeno beato. E nemmeno beato, esattamente. Ma molto probabilmente nasce dal fatto, a seguito meglio di una lettera, ecco, apostolica del Papa Pio X, che chiede che i laici che non hanno la vocazione sacerdotale non studino più in seminario. Ecco. Quindi si era creato un segmento importante che il vescovo Longhin coglie, cioè di giovani che erano intenzionati a proseguire gli studi anche superiori. Difatti nasce come scuola di studi superiori, adesso abbiamo anche la scuola dell'infanzia, delle medie, ecco, e delle superiori, ben si intende, ma era nato proprio per fornire una cultura a questi, ecco, futuri, diciamo, esponenti della società, che in qualche maniera contribuissero a creare una società onesta, buona, ecco, solidale. Quindi un po' la cultura mediata, ecco, attraverso il messaggio cristiano. E questa è un po' la genesi del Collegio Pio X di Treviso. Professor Busetto, voi partecipate al progetto Aurora nell'ambito del centenario, ma vi partecipate come docenti e non con degli studenti. Esatto, sì. È proprio un lavoro che coinvolge noi docenti del Collegio Pio X, in maniera particolare quelli dell'area umanistica, e il lavoro che stiamo svolgendo è proprio quello di un'indagine sui rapporti tra la scuola, il mondo della scuola, quindi anche il mondo del nostro collegio, e l'idea educativa del Papa Pio X, e attingendo a tutti gli iscritti del Papa. Per questo motivo proprio è in atto un'indagine sia storica, quindi tra gli archivi, negli archivi del seminario dello stesso paese del Papa, Riese Pio X, e stiamo scoprendo proprio questa idea di educativa che fondamentalmente è proprio legata anche a quanto abbiamo appena raccontato sulla nascita del nostro collegio, cioè quella di educare laici, di una distinzione sì tra religiosi e laici, ma soprattutto di poter educare il cristiano dell'epoca moderna. Anche la famosa enciclica sul modernismo in fondo detta delle linee educative proprio per il cristiano dell'epoca moderna. Certo, Pio X è andato, come dire, ha messo in guardia dal modernismo, che è ben diverso da mettere in guardia dall'epoca moderna. Sì, su questo abbiamo già avuto degli interventi autorevoli nelle scorse settimane. Voi ci state lavorando da tempo, professor De Conto, su questo progetto. Sì, dobbiamo... Che cosa ne dovrà venire fuori nelle vostre intenzioni? Ecco, una cosa che volevo così integrare al professor Busetto è che fin dall'inizio la nostra scuola nasce come collaborazione fra preti e laici, quindi non sono solo preti ma anche laici, proprio per questa così istanza culturale. Ma noi abbiamo iniziato col collegio docenti, condividendo con i colleghi, ecco, questa iniziativa già, ecco, nella fine dell'anno scolastico 11-12, ecco, quando in fondo è partita la cosa. Il grosso del lavoro si è iniziato a partire dalla primavera, diciamo, di quest'anno, ecco, del 13. Facendo ricerche, come diceva il professor Busetto, per arrivare a cosa? Per capire un pochino il messaggio che tuttora in fondo noi possiamo, no, portare avanti e che era nei fondatori del collegio. Quindi Longhin, Meneghetti è il vero, il fondatore, certo, vero e proprio, però certamente quel grossissimo appoggio di Longhin, che in qualche maniera faceva sue anche le istanze, ecco, culturali di Pio X. Quindi un messaggio ricevuto, no, una mission quasi nel 22 che continua anche oggi. Quante persone sono coinvolte? Sono coinvolte una decina di docenti e stiamo lavorando proprio sull'analisi, ad esempio, dell'enciclica sul modernismo. Stiamo lavorando sui discorsi che Pio X ha dedicato al tema delle scuole, dell'educazione, che fondamentalmente sono discorsi di ampio raggio, quindi sulla pastorale, sulla problematica del cristianesimo nell'epoca moderna, e quindi è un'analisi di questo genere. C'è anche chi sta affrontando un'indagine su Pio X e il mondo della musica, un altro aspetto interessante proprio che riguarda questo progetto Aurora. Quindi il corpo docente, ecco, è proprio interessato a sottolineare questi aspetti. Quello che sta emergendo è proprio l'attenzione che Pio X pone su un'armonia tra ragione e fede nell'epoca moderna, la possibilità di questa armonia, di vivere questa armonia. E quello che noi vogliamo fare è proprio quello, è proprio indicare i cardini di questo pensiero. Quindi sarà proprio è un'indagine, sarà il frutto di questa ricerca è proprio una chiarificazione di questa idea educativa, i cardini di questo pensiero cristiano contemporaneo nella modernità, radicato nella modernità, utile per un laico anche di oggi. Certo, e sembra di sentire un po' anche Papa Benedetto XVI, no? Ragione e fede, e anche Giovanni Paolo II, quindi vuol dire che c'è una linea di continuità anche a quasi un secolo di distanza. Allora, il nostro tempo è finito, ma io vi auguro buon lavoro, perché ne avete ancora tanto da ricercare. Sì, a primavera verrà concluso il lavoro. E pubblicato insieme, certo, agli altri, anche, esatto, dei ragazzi, certo, e degli studenti. Grazie allora al professor Mario De Conto, al professor Samuele Busetto del Collegio Pio X di Treviso. Grazie. E buon lavoro. Grazie.